si faccia nell'altro, quindi ecco, a raddoppi da sempre. Lo so, ma cioè, tu sai benissimo che se la carica è buona, la base è buona, che non è attaccata da niente, se ci nutrisci e le cose che ci vogliono, se per esempio i radiali sono nuovi, lo stile centrale è buono, è nuovo, è tutto quanto, quanto merita, e si può recuperare, dai. Infatti ti ho detto che guarda se si poteva recuperare, recuperarla, ma se no anzi, la puoi saperla, è casino, perché poi ha messo il suo tempo, dice che ha messo neve, lui. Ha messo neve? Allora, in Sicilia sta già nevicando. Ma è vero. Allora, in Sicilia stava nevicando. E ha messo neve, la temperatura dice che domani si abbassa e cose, poi bisogna vedere se è qua o dove, però ha messo neve. La mattina c'era un ghiaccio sulla macchina, avevo 2 gradi. Me l'ha detto Falchetto che è andato oggi da prendersi il vino, ha detto che c'erano delle tabullane piene d'acqua, cioè piene di ghiaccio, perché l'acqua si è ghiacciata. Era pieno di ghiaccio dentro. Insomma, lui gli fa, cioè Marco gli fa, come il toccaglio, alla temperatura che si è sollevata, lì invece all'altro ha fatto casino, è un cazzo di vento, aveva le ricchezze a Bologna. E adesso sta diventando un po' pazzo. Ha portato, si è crollato quel pezzo di cosa, di rocca che c'era a Balai, dove c'era quella caverna, dove era morta lì nel Cusco, l'ho trovata morta quella lì. È crollato quel pezzo. È crollato. E c'erano i vigili del fuoco, eccetera, eccetera. L'ho fatto vedere Antenna 1. Ma è crollata la punta o è crollato tutto quello spiazzo lì? La punta, dove c'era la caletta dove che si fermavano tutti, da. Si fermavano tutti a guardare quella grotta, in quella caletta lì. E la punta è un bel pezzo. Quella è la porta del mare, allora, dell'altra notte, da Aldicio. C'è il mare, a volte arriva anche sulla strada. E a volte quando passo col furgone, che il mare è mosso, mi schizza il furgone. Quello l'ho visto anch'io, in quell'insenatura che c'è, ci arriva la sinistra, si batte forte fino sotto la strada, in quell'insenatura arriva lì fino lì sotto. E dice che comunque sta andando deteriorandosi quella parte lì del mare. Beh, l'altro giorno ti ho fatto notare che prima quella spiaggia era molto più in là, guarda quanto è rientrata. La natura semmai di tutto si sta rivoltando, perché in pochi anni, guarda tu quello si è mangiato di quella spiaggia di papà, che se tu vai al terzo e quarto pettine, guarda quanto si è mangiato in spiaggia, che era larghissima, adesso ce n'è una striscia. Diciamo che anche le mareggiate, quello lì, le mareggiate che fanno, poi dovrebbe ritornarla. Ma cosa, per dire, a Porto Torre c'è una spiaggetta lì a Bari. Più in giro devono portare la sabbia perché non è una spiaggia artificiale. No, però mi sa che quest'estate che è il terzo pettine, è una compagna di spiaggia, che... No, ma poi l'hanno anche detto che se viene rosicchiata il mare, parte della spiaggia. Adesso sinceramente non me lo ricordo, hanno anche detto quanto ne manca. Sì, appena già si vede che più fila. Ehi, a voglia. Prima parevi alla battigia che dovevi fare in strada. E basta, allora tu fatti il carico di quella della marina. Se già arrivato di sera c'è quello spiazzo, c'è il banchiglio. Guarda quanto ne manca lì, non si vede. E poi tra l'altro è stata riportata anche a blocchi di roccia e a mezzo mezzo ne arriverò mai. Quasi quasi chi su mare prima sera un bel gigante, ma ormai è quasi sotto, e non so, l'altra volta che ho fatto la mareggiata e arrivavano le onde anche. Più di una volta pescando succedeva così, magari eravamo nella sabbia asciutta, nel canne, col porta a canne. Arrivava questa mareggiata e arrivava sino dopo il portacarro, quindi dovevo spostare perché se poi scava che fa cadere tutto in terra. Lo so, ma comunque il mare si è un pochettino sollevato, si continuano a uscire ovvero qua. Ho visto anche lì quella spiaggia che c'è a Frisciano. Mi pare che non ve ne più altre spiagge. E tutti questi maremoti, queste cose di spostamenti, è normale che succedano queste cose. Chi era rimasto con il 40? Ah, boh, non lo so perché ce l'avevamo io un pacchetto. E Giuseppe, che ci siamo spostati qua ai canali. Perché stasera c'erano più disturbatori. Sì. E ci hanno fatto i tutti di più. Andava, andava. E cosa vuoi fare? Lasciali fare, fare. Abbiamo cambiato più canali, ma niente che è venuto al 41, al 45. Sovramodulare, importantissime porti, fischiare, fare, insomma, si è arrivato da Tricorolla. E mai posso immaginare. Poi alla fine siamo riusciti a fare un po' di discussione, un po' senza disturbi, spostandoci da mai canali. Alla fine abbiamo detto ritorniamo alle 10. Siamo stati un bel po' chiacchierando. E poi ti dopo l'ho alzato Giuseppe ha detto le ultime parole fatica. Ah, adesso sì che stava bene, ci abbiamo fatto finalmente una chiacchierata, tum, la portata. E segnali come so? No, quello era quello di qua, amico mio di qua, quello che faccio il 10. Le altre già erano portate forti. Comunque, anche stamattina l'ha messa la portata a me a Luca, quello lì. Ma non si vediamo ancora isoletti. Allora, ti dico, se vuoi continuare a fare tappa, che non viaggiare il canale, arrivi a un certo punto di no. Pira e no, che tracca, ce ne via. Esagerato, no, no. Ho capito tutto io già. Già te lo dico io cos'è la storia. Cava cava. Uia, mamma mia, tutto cronica. Non c'ho un pezzo sano. Niente grido, ma com'è che è andata a fermare? Cos'è la catastata che stai fuori? È una catastata grossa. Si è spaccato, la trave che reggeva, è caduto tutto, ha buttato giù un muro, ha rotto due macchine, e a me. Oh boh. Ci sono molti vicini al fuoco per tirarmene. Ah, vero, sotto. Allora c'è il rischio che calci tutto, non ho avuto imbragare, non ho lavorato un'ora. E tu sei preso? E allora? Ma dimmi tu. Oi, oi, oi, oi. gravi tale, ma comunque frattura, niente, non c'è nulla, è tutto a posto. Per il momento sembra di rosso, tutto a posto, nella schiena e nelle gambe. Sì, guarda un po'. Vabbè, vediamo un po' stasera come ti senti, vediamo un pochettino. Lasciano pazienza. Vediamo. Però io non... di guidare non me la sento nemmeno, nulla, no? Zero, proprio zero. Gianni. Gianni. Fatta la luce, no? Interessante che si è fatto male. Beh. conoscete, tanti anni fa, un compagno di classe di Viviana, che portavano le bombole col padre, insomma cattifrini, e lui voleva mettersi una, far andare una bombola sotto le ruote per bloccare il camion che era all'infarata. Che se da tenere una bombola non sono quasi tutti i gatti nati, è rimasto paralizzato. Gaba gaba. Paolo. Qua mi ha, ciao a tutti, qua mi ha fatto. Pochi fatti mi ha fatto. Perché ti ha pochi fatti? Forse un po' di manda, allora devo accorgersi qua adesso. Poi manda. Allora che siamo nel 40, mi. No, poi siamo troppo su di manda. Ah, no. Facciamo prendere fuori manda, casetta mica noi siamo, per non va bene a 40 su. Sono 27405, punto 00, gava. Ecco, è 40, anche io 40, ti faccio così. E sto facendo che, aspetta, ecco qua. Aspetta. Ecco qua, oh là. Non più qua. No, no. Tanto avanti sarà. 30. Se l'altro va negativo, eh. Non so, magari potevo accordare qua rosso. Magari mi sentite, sì, bene va. Sì, ma è freddo probabilmente. Puoi sale. Ah, no, vabbè, freddo non è freddo. Dai, stai mai, dai, ciao. Ma va bene, va. Mi stavo ascoltando poco fa, adesso devo uscire, ma no, non è mai gara. Se mi tirate fuori, mamma, ci uscirà molto.